no. Ma sei matto? L'hai incontrato? Hai incontrato te il nuovo capitano? Mi no. Ti? No. Ma perché? Perché, scusa? No, niente. Ma come niente? Sì, no, niente. È che girano delle voci. Voci? Che voci? Ma sai, le voci girano. Girano le voci. Ho capito, voci, che voci. Ma sei matto? Voci che. Sto nuovo capitano è peggio degli austriaci. Cosa sei che fa? E ne sparano gli altri. Ma no, però non so. Ascolti me, guarda che un capitano è come un papà per noi altri. Sì, quello che c'era prima, sì, ma sto nuovo qua, chissà. Sono due soldati, si chiamano Tonon e Romeo. Tonon, a dispetto del nome, è secco, ha una fame continua e parla quanto il suo stomaco. C'ha 19 anni, viene dalla campagna veneziana. Romeo, invece, ha occhi tristi su una faccia tonda, ha 20 anni e viene dalla bassa veronese. Il nuovo capitano ha fatto un giro al posto di vedetta. Si sentono dei rumori. Tonon e Romeo stanno tornando dalla ricognizione al buio e la vedetta si scuote dal freddo e chiama. Chi va là? Siamo noi altri. Parola! Parola? Ma come parola? Parola o sparo! Ma ostia sacramento! Ma non ti senti che siamo italiani? Dio Madonna! La vedetta non sa che cosa fare. Guarda il capitano gli fa cenno di lasciarli passare. Avanti! Tonon e Romeo avanzano dal buio, non sanno che c'è il capitano ad aspettarli, appena lo vedono scattano sull'attenti. Chi ha parlato di voi? Soldato, Tonon, Giambattista, signor tenente. Ti sembra un tenente? Lo scusi, signor capitano, che Tonon non si ricorda bene i gradi. Tu chi sei? Salsa Romeo, signor capitano, agli ordini. Ho fatto una domanda al tuo compagno. Allora, Tonon, non ti ricordi la parola d'ordine? Non ti ricordi i gradi? Cos'è che ti ricordi, Tonon? Seguitemi. Il capitano inizia a camminare, Tonon e Romeo seguono. Ah, proprio come un papà, eh? Oh, ma se colpa tua, non te ricordi mai sta parola d'ordine? Ma se tu l'hai chiamato tenente? Oh, tenente, sergente, capitano, tanto sempre qua, siamo. Sì, ma adesso cosa facciamo? Adesso Romeo cammina e tasi. Romeo cammina, però a un certo punto non ce la fa più a star zitto. Signor capitano, ma siamo in punizione. Ormai dovreste sapere che le regole servono a qualcosa, no? Tornate ai posti. E tu, impara a riconoscere un capitano. Tonon e Romeo salutano e si infilano in trincea. Dai, dai, tono, ripassiamo i gradi. No, no, guarda, Romeo, non go voglia. Tonon, hai sentito cosa ha detto il capitano? Che se no li impari poi... Oh, Romeo, cioè, non so boh. Tonon, è facile, ti aiuto io. Il primo, chi è? Primo, aspetta. Primo, aspetta. Questo qua, semplice, poi aspetta, guarda qua, soldà semplice, caporal maggiore, bravo, poi, non mi ricordo, aiutami, no? Allora, sergente, maresciallo, tenente, no, come no, sottotenente, capitano, bravo Romeo, grazie. Arriva il capitano e si mette a fumare assieme agli altri. Tonon lo guarda, prende un gran respiro e parte. Soldà, semplice, caporale maggiore, sergente maggiore, maresciallo, sottotenente, tenente e capitano! Applaudono tutti, tranne il capitano. Oh, Romeo, va dal capitano, domanda che delle lettere. No, non mi sembra proprio il momento. Dai, sei un capitano, fai il capitano, ma sei anche buono a leggere e scrivere. Va, domanda che delle lettere. No, ma io non capisco. Dai, ti tengo il posto, corri, vai. Signor capitano, posso fare una domanda? Cosa c'è? È il capitano che c'era prima? Il capitano che c'era prima cosa? Mi domandavo, se ha un poco di tempo, signor capitano, mi può scrivere una lettera? Per chi sarebbe questa lettera? Per tua madre? No, signor capitano, non è per mia mamma, è per la Maria. Ah, capisco. Comunque non ho tempo per queste cose. Ah, capisco. Ma per caso è per colpa dell'attacco? A questa parola fanno silenzio tutti quanti. Il capitano sa che li sta ascoltando tutti. Quale attacco? Ho sentito dire che fra poco ci sarà un attacco. Io non so niente. Ma me l'ha assicurato l'attendente del colonnello. Allora sarà vero. Il silenzio adesso è più pesante perché c'è solo una cosa peggiore di un attacco ed è la voce che dice che fra poco ci sarà un attacco. E le reazioni dei soldati sono due. Ci sono quelli che per paura non parlano più, come Romeo. Poi ci sono quelli che per paura non fanno nient'altro che parlare e ci sono quelli che dicono ma va là mona e altri che dicono ma crepa. E poi ci sono quelli che si affidano al tempo. Oh, finché piove qua, stiamo tranquilli. E poi ci sono quelli che fanno finta di informarsi. Oh, ma cos'è? Attacchiamo l'albero storto? E tu non... No, guarda, attacchiamo che la vacca e tua sorella che fanno una bella festa. Tua sorella, mio. Tu non cerca approvazione, ma stanno tutti guardando per terra, perciò alla fine ci guarda pure lui. E invece Zanella, più che la paura... gli prende la rabbia. Ma non l'hanno ancora capito che se non c'è la nostra artiglieria che butta giù i reticolati, non facciamo. Ma come facciamo a passarci in mezzo? Ma neanche tutto l'esercito ci riuscirebbe. Ma quanti reggimenti sono sfasciati sopra quelle montagne là? Non un reggimento bersaglieri. Undicesimo reggimento bersaglieri. Dodicesimo reggimento bersaglieri, tredicesimo reggimento bersaglieri, 15° reggimento bersaglieri, 16° reggimento bersaglieri, 10° reggimento bersaglieri, 19° reggimento bersaglieri, battaglione alpini Cuneo, battaglione alpini Aosta, battaglione alpini Susa, battaglione alpini Verona, battaglione alpini Vicenza, battaglione alpini Bassano. Gero al settimo, Gero de guardia alla tenda. Stanno a sentire tutti un racconto di Busa, anche il capitano. E sti striaci, mi tira un fracasso di granate, una di queste, no, mi ciapa proprio in te la tenda. E in te la tenda che avevo, e il cofano della cancelleria, e il telefono, e il caretel del vin. Me assa stare il cofano con tutte sue scartoffie de merda. Me assa stare il telefono che rompe sempre i coglioni. No, ostia, no! Me zappa proprio sul caretel del vin. Adesso, ho fatto fare una galleria sul ladrio. E in fondo che ho messo il vin. Che se sti strieci vuol ciapparlo, voglio proprio vedere cosa che si inventa. Romeo, cosa ti farà quando sarà finita sta guerra de merda? Non so, Busa. Io penso che voglio sposare la Maria. Bravo, bravo Romeo, bravo, bravo. E Tito, no? Ma io penso che potrei acciappare due fiaschi dalla tua galleria in fondo. e fare una bea beuda alla fine della guerra. Oh, poi c'ha un altro fiasco e vago dai striaci per fargli i complimenti. Bravi striaci, bravi, bravi. Ma sei matto? Non matto? Perché? Cosa sei che ti fa del male? Come cosa? Ci sparano. E ti cosa affetto? Ma guarda, chi sei il matto adesso? Ah, capitano. Il capitano li guarda, serio, sta zitto. Romeo pensa che è il momento di chiudere il discorso. Vabbè, per me non sono altro che nemici, basta. Nemici, Vabbè, Mino li c'ha Maria, nemici. Ma come li chiami? Perché? Striaci? Come sai che chiamano gli altri? Porci italiani ci chiamano, visto? Mica nemici, italiani. Sì, ma porci però. Vabbè. Tonon chiama Romeo in disparte, lontano dalla vista del capitano. Tonon si appoggia con la schiena alla trincea. Cos'è? Cos'è che fai? Vedemo adesso. Si ise amici o si ise nemici. Tonon si prende con entrambe le mani l'elmetto e inizia ad alzarlo lentamente sopra la testa, fino a quando l'elmetto non esce completamente dalla trincea. Sta lì per qualche secondo. C'è silenzio, nessuno sparo dall'altra parte. Visto? Cosa ti ho detto? Se tutti amici di Tonon. Sì, dai, adesso vieni via prima che il capitano ci veda. Tonon fa un gran sorriso e inizia ad alzarsi lui con la schiena fin sopra la linea della trincea, fino a quando la testa esce completamente dalla trincea. Ma cosa fai? Sei matto? Ti sei convinto o no che sei tutti amici di Tonon? Ma cosa fai? Vieni giù, ti sei convinto o non ti sei convinto? Ma vieni giù, ti sei convinto o no, ti sei convinto? Vieni giù! I soldati iniziano ad urlare, il capitano corre verso di loro, con una mano spinge Romeo da una parte, con l'altra prende Tonon, lo butta a terra. 3 giorni di cella di rigore, voi due portatelo! Gli altri si preparino per la notte. Mai la testa fuori dalla trincea. Regola numero 2. Se smetti di fumare è meglio. Regola numero 3. Volontario, mai. Regola numero 4. Agli ordini, sempre. Regola numero 5. Invisibile il più possibile. Regola numero 6. Il sibilo sottile è il peggiore. Regola numero 7. A terra prima ancora di sentirlo. Regola numero 8. Allenati ogni giorno a mettere la maschera antigas. Non ti fermare. Regola numero 10. Non guardare i morti. Regola numero 11. Guarda i morti. Regola numero 12. Non farti domande. Regola numero 13. Impara a non tremare. Regola numero 14. Mangia tutto quello che puoi, topi compresi. Regola numero 15. Non ti fermare. Regola numero 16. Non ti fermare. Regola numero 17. Non ti fermare. Non ti fermare! Finita la notte, il capitano passa in rassegna i suoi. Sono tutti stanchi, non vedono l'ora di farsi una dormita da qualche parte. Tutti tranne uno, Romeo, che se ne sta tutto accovacciato sopra di un foglio, tutto stropicciato. Sta cercando di scrivere la sua lettera, però dalla fatica che fa sembra che stia intagliando il legno. Il capitano gli si fa accanto. Romeo, è per la Maria? Sì, signor capitano, sì. Posso darci un'occhiata? Ma come no, signor capitano? Il capitano prende la lettera, prova a leggere, ma fa la stessa fatica che ha fatto Romeo nello scriverla. Ma dove hai imparato a scrivere, Romeo? Non ho imparato, signor capitano. Ma si capisce quello che c'è scritto? Sì, sì, sì, si capisce. Abbastanza. Adesso prova a riposarti un po'. Sì, grazie, signor capitano. Romeo? Sì? Quando? Si scrive con la Q, non con la C. Allora, la ringrazio, signor capitano. Il capitano raggiunge la sua posizione e anche lui cerca di dormire. Il perché non lo conosco. Esco dalla trincea da solo. So che è sbagliato. Lo so, ma io ci vado lo stesso. Punto dritto verso l'albero storto. È come se mi chiamasse. Fuori e dappertutto c'è un silenzio che non c'è mai stato di freddo. Quello dove anche gli uccelli dormono. Vedo Fritz, l'altro capitano, nell'altra trincea, di fronte a me. Punta solo l'elmetto, poi si alza un po' fino a quando riusciamo a guardarci negli occhi. Anche lui sente il silenzio. Si alza ancora fino a quando esce pure lui dalla trincea. Io allora inizio a camminare verso di lui. Tutto attorno ci sono i miei ragazzi, stesi a terra a pancia in su con gli occhi chiusi. Non sono morti, vedo i loro petti salire e scendere, dormono. Adesso sono una ventina di metri da Fritz, fucile in mano. Ci guardiamo senza fiatare, c'è calma. Poi, improvvisamente, tutti e due alziamo il fucile, l'uno contro l'altro. Io ho paura e sparo. Lo prendo dritto al cuore, lui casca giù nella trincea sua, proprio sotto l'albero storto. Tutto attorno stanno dormendo ancora tutti quanti. Allora io corro verso la trincea sua. Voglio vedere che faccia ha il mio Fritz. Mi butto dentro. Lì ci sono i suoi ragazzi, anche loro dormono. Lui invece è riverso, a pancia in giù, l'elmetto poco lontano. Io mi chino verso di lui, con una mano gli prendo la spalla e lo giro. Fritz ha il mio viso, ha la mia stessa faccia. Fritz sono io. Alzo la testa, c'è il maggiore vicino a me. Capitano, che cosa fa qui? È impazzito. Scusi, maggiore. Capitano, ancora un altro passo, ne subirà tutte le conseguenze. Io mi rigiro verso Fritz, ma lui non c'è più. Il capitano si rialza dalla branda, esce dalla sua postazione e corre per cercare Romeo. Romeo nel frattempo si è addormentato con la faccia sopra la lettera. Romeo? Sì, signor capitano, attacchiamo? No, Romeo, dammi la lettera. Ho fatto altri errori, signor capitano. Dammi la lettera, detta, su. Mi scrive la lettera, signor capitano. Dammi la lettera, detta, su. fa un po' più caldo, la primavera inizia a spingere e Tonon torna dai suoi 3 giorni di cella di rigore. E ora, Tonon, come sei andato? Ben ben. Oh, niente striaci, niente toppi, te porta pure da mangiare. E ora te sei andato via malattia. Oh, qua è malattia. Qua adesso è mona, mona. Oh, va, va. Ma vieni a lavorare. I soldati stanno tutti lavorando a rinforzare le trincee, tutti, anche il capitano, stanno lì a lavorare sotto il sole in silenzio. Tonon. Dov'è che sei nato te? Sono nato a Piave. Vicino al Piave. Romeo, sono nato a Piave. Scusa. Tonon. Pensavo che se nascevo dove sei nato te, non conoscevo mica la Maria. No. Quella Maria, no. Però che ne siete belle figlie dalle mie parti. Sì. Ma sì, ma non come la Maria. No, come la Maria, no. Infatti. Tonon. Oh! Pensavo che anche te potevi nascere da un'altra parte. Tipo? In Austria. In Austria? Cioè, tu non austriaco? Cioè, ma ti me dovevi sparare addosso se c'era austriaco? Mi sa che sì. Ma brutto muso che te sì, ma ti me vuoi sparare addosso? Ma non è colpa mia, sei te che sei austriaco. Ridono tutti, anche il capitano. Poi il capitano smette di lavorare. Tu non? Sì, signor capitano. Ci sono cervi dalle tue parti là? Ma che domanda sia? Che ne sei, signor capitano? Che ne sei? Che ne sei dei cervi? E qua ne hai visti? Ma capitano, con tutto sto baccante di bombarde e cannoni qua, cervi, ma è impossibile. Ma perché, scusi? Posta! Posta! Arriva il soldato a distribuire la posta, smettono tutti di lavorare e si mettono in fila ognuno per ricevere la propria lettera, tutti, anche Romeo. E Romeo riceve la sua lettera e corre, va dal capitano, gliela dà, il capitano prende la lettera, la gira, legge il mittente. Sospira il capitano. Sospira anche Romeo. È di tua madre. Romeo, rovista nelle sue cose, tira fuori della carta e la porge al capitano, il capitano la prende. Detta, su. Cara Maria, spero che voi state bene. Io sto bene. Gira voce che fra poco ci sarà un attacco e io ho un po' paura. Però non pensate che sono un vigliacco. Perché gli austriaci hanno le mitragliatrici, però con voi nel cuore so che posso affrontare anche la morte. È per questo che sarei più contento se mi scrivete anche voi, perché vi scrivo solo io. I miei compagni dicono brutte cose su di voi, ma io non ci credo perché lo so che mi volete bene. Però se avete un poco di tempo, scrivetemi. Per me sarebbe una grande consolazione, perché non so che cosa succede domani. Forse attacchiamo e io ho paura di non vedervi più. Tanti saluti, vostro per sempre, Romeo. Romeo, Busa e Tonon vengono svegliati all'improvviso. Il sergente gli dà un ordine urgente, che è quello di uscire dalla trincea. E Romeo, Busa e Tonon non sanno che cosa fare, fanno domande. Ma armati? No, non importa. Ma neanche il fusil? No, senza. Ma cosa sei, una ricognizione? Sì. Oh, ostia, neanche il fusil. Insomma, il sergente li porta dove non dovrebbero andare. Loro ci vanno lo stesso, seguono. Dopo una decina di minuti di cammino raggiungono la postazione degli ufficiali e lì ad aspettarli c'è il capitano che appena li vede sorride. Romeo, Busetto non sanno che cosa fare, scattano sull'attenti e aspettano l'ordine. L'ordine è vuotare una zuppiera piena di gnocchi. C'è anche il formaggio, portarsi il cucchiaio. Prima, passare con il capitano a prendere il vino. A Romeo Busetto non gli si slarga un sorriso sulla faccia e corrono a prendere il vino. Il primo bicchiere va giù come l'acqua. Il secondo già inizia a battere in testa perché sono digiuni e per fortuna arrivano gli gnocchi che con il formaggio che ci mettono non sono più gnocchi con il formaggio, ma formaggio con gli gnocchi. Non sembra che non abbia mangiato da una vita intera e è ancora con tutti gli gnocchi in bocca. Giura, signor capitano, sei il più bel giorno della la mia vita! Me magno tutto! Oh, go! Un fusil de liquirizia che spara maccheroni! Ma cosa è questa storia qua? Signor capitano, è il più bel giorno della mia vita! Avanti Savoia! Mi arriva addosso una granata! Ma no, non sono morto, sono tutto unto e bisunto dell'Uganega! Ciao, Istria ci spara salsicce! E buone anche! Avanti Savoia! Una ferita sulla pancia e ben fuori vino e fegatello. Una ferita sulla testa, niente, ben fuori una frittata. Oh, mi do de lama uno, ancora vino e odor de baccaia. Oh, avanti Savoia! Tocchi del cervello che parevano patate, gambe abbrustolite che pareva stinchi del porseo. Ma sta qua non c'è una guerra, c'è una festa all'osteria. Avanti Savoia! Tutti alzano il bicchiere per brindare al più bel giorno della vita di Tonon. Poi appoggiano il bicchiere. Allora, Romeo, facci vedere com'è questa Maria, ce l'hai una foto? Eh no, signor capitano, non ce l'ho la foto. Mi dispiace. Vabbè, dai, conta come sia sta Maria, come sia sta Maria. Non so cosa dire. Ha gli occhi scuri, i capelli lunghi. Mi vergogno, è bellissima. Di nuovo riempiono i bicchieri e fanno un brindisi a Maria. E lui, capitano, la gala su Maria, eh? Dai, non sono domande da fare al signor capitano. Romeo, ma cosa che siete male, ah, capitano? Il capitano prende il suo sorso di vino. Noto, non ce l'ho la mia Maria. Vabbè, capitano, non c'è da preoccuparsi, che ne siete Marie belle a sto mondo. Femmo un brindisi a tutte le Marie belle di sto mondo. Alzano di nuovo il bicchiere, bevono. Nel frattempo il sergente entra e consegna una lettera dal comando al capitano. Il capitano legge la lettera. Oh, cosa c'è, signor capitano? Ne dà il cambio, finalmente. Il capitano guarda tutti i presenti. Attacchiamo fra 2 giorni. viene avvistato un topo e questo non farebbe notizia, quello che fa notizia è che sembra che il topo sia enorme e le voci vanno da soldato a soldato, finalmente si ha qualcosa di cui parlare. E Romeo invece è spaventato perché non si è ancora abituato a questi compagni di trincea. Le voci sono nell'ordine. Guarda, guarda, un topo grande. Ed è grandissimo. Lui. È un topo, non sembra neanche un topo. Sì. No, no. No, no, guarda, gli dice un topo toro. Oh, questo sembra toro, sì, è la versione più accreditata e partono le illazioni. Oh, ma cosa hai? Corni, sto topo toro? Ma cosa? Oh, se vede rosso, come sei che femo? Tonon più pratico. Ma se potrà mangiare un topo toro? Il topo in questione non è molto più grande del normale, però sembra che stia male. Non cammina bene, si trascina. Sembra che sia venuto a morire proprio qui, vicino a Romeo, perché il topo punta verso Romeo. Romeo è inorridito perché non vorrebbe guardare, ma deve guardare dove si vuole andare a ficcare questo topo malato che è venuto a morire proprio qui, vicino a lui. Il topo fa un ultimo passetto e si lascia cadere proprio accanto a Romeo. No, no, no, ma cosa vuole da me? Romeo, complimenti, ti sei diventato papà. Ora che non sei un topo, sei una topa, mona. La topa inizia a partorire un cucciolo, poi un altro ancora, alla fine i cuccioli saranno 8. La mamma li tiene stretti mentre loro si muovono piano. Guarda se che sei un posto più de merda dove venire al mondo. Romeo guarda la mamma coi suoi cuccioli, non riesce a staccare gli occhi. Non ha paura, li fissa in silenzio, poi inizia a piangere piano, poi sempre più forte, poi si alza, non ce la fa più e corre verso il capitano. Capitano, ha tempo per scrivere? No, Romeo, dobbiamo rimandare. No, capitano, lo so che fra poco attacchiamo, io devo scrivere. Ma hai sentito che cosa ho detto? Capitano, può essere l'ultima lettera della mia vita, la prego. Dai. Detta veloce però. Cara Maria, spero che voi state bene. Oggi è quasi un anno che sono qua e non c'è un giorno che non vi ho pensato perché vi voglio tanto bene. Poi, Romeo. Romeo, cosa vuoi scriverle? Non so, capitano. Non so più. Dai, Romeo, conta sta storia della topa, no? Dai, Romeo, conta di quel mona di Zanella. Dai, se lo ricorda, capitano, quel mona, pa' imboscarsi se ga spara sul pie. Ma sto mona, prima se ga tolto il scarpo, poi se ga spara sul pie, poi se ga rimesso il scarpo, ma pare che ne sei uno più mona di Zanella. Dai, conta sta storia, Romeo. Ma no, ho già raccontato storie così. Dai, Romeo, puoi fare tu delle domande a lei. Ho fatto domande, capitano. Ho chiesto come sta, cosa fa, cosa si dice della guerra, se mi pensa. Basta domande, basta, capitano. A Tonon gli viene in mente una cosa e scivola via. Rimane il capitano con il foglio di carta in mano. Romeo, voi allora le scriviamo un'altra volta, va bene? No, capitano, la prego, per favore. Scriva, cara Maria, voglio dirvi che se per caso volete scrivermi, io vi prego di non scrivermi mai, perché dopo un anno così io penso che non mi volete bene e non è giusto. Arriva Tonon con un gruppo di soldati. Io pensavo ad un sogno lontano. inizia a piangere, si scuote, si alza e prima che chiunque possa dire o fare qualcosa esce dalla trincea e corre verso casa. Un cecchino austriaco lo vede, lo segue con il fucile, punta, spara. Adesso il silenzio è totale. Non fa per uscire anche lui dalla trincea. Ma cosa vuoi fare? Vuoi farti ammazzare anche tu? Sei impazzito? Ma capitano, non sei morto? Non sei morto che avevamo da portarlo su, signor capitano? Fai tre passi e ti buttano giù. Ma capitano, è un ordine, Tonon! È un ordine! Tonon si calma un momento. Romeo urla a 20 metri dalla trincea per la ferita. Tonon non ce la fa più, si stacca dalla presa del capitano, ma c'è Busa che lo tiene per il braccio. Tonon dà un morso alla mano di Busa, lui urla e lascia la presa. Tonon esce dalla trincea e corre verso Romeo. Stanno tutti aspettando lo sparo del cecchino. Tonon raggiunge Romeo, lo prende per le braccia e se lo mette sulla schiena. Gli austriaci non sparano. Tonon inizia a correre, già non lo si vede più. Ehi, Romeo, dai. Oh, resisti, sa? Resisti, adesso andiamo dal dottore, ti metti in sesto. Romeo, dai, una benda di qua, una benda di là. Che sei anche le infermiere belle che ti fai carezze. Oh, Romeo, resisti, sa? Giuro che se resisti ti faccio sposare sta Maria. Oh, non può dare adito, no, con sta ferita qua, un eroe di guerra, eh? Romeo, resisti. Resisti che poi arriverà tutto il paese, eh? E arriverà prima la tua mamma, prima di tutti, poi il tuo papà, poi arriverà tutti quanti con bandiere e coriandoli e la musica per cantare all'eroe che si scampa la guerra, eh? Romeo resisti, che poi in fondo che sarà anche la Maria, la vestia di bianco, pronta per lo sposalizio. E tutti che urla, se arriva la sposa, se arriva per l'eroe, eh? Romeo, resisti, sa? Resisti, che poi arriverà la sera e andrai in camera da letto soli e ti dirà fa un poco più di scuro che me vergogno e ti te farà un poco più di scuro, ma non troppo, perché la ti vuol veder bella che sei, la ti vuol veder che si spoglia del vestito bianco, eh, Romeo? Resisti, no? Resisti che poi ti farà tanti fioi picco, e ti rompi i coglioni come ti, eh? Do femmine tre massi. Te li porterà da mio sul Piave, eh? Romeo, resisti che andiamo in està, che se bevo secco sti fiori ora correre, sugare ste femmine che suga a far le femmine e i maschi che suga a far la guerra, e ti te dirà no, non si tiene così il fusil, sta attento, no? Sta attento, guarda, sta zo che ti può beccare, no? Sta zo che ti può beccare, aiutalo, no? Aiutalo! Romeo, resisti, se muori vai, guarda il dottore, di qualcosa, Romeo. Sì, se chiama Romeo Sals, sì, di qualcosa, Romeo. Romeo, un attimo, dottore, abbiamo fatto d'occhiometri, di qualcosa, Romeo, guarda, Romeo, che non sei permesso morire, Romeo, di qualcosa. Romeo, di qualcosa. Romeo! Capitano si sveglia di soprassalto. Il maggiore è seduto sopra la branda dove è sdraiato il capitano. Sia pure comodo, capitano! Il capitano cerca di alzarsi, ma è stretto dalla coperta sulla quale è seduto il maggiore. Capitano, ha sistemato bene qua, non sembra neanche di stare in prima linea. Bravo! Il maggiore tira fuori due sigarette, la sua se l'accende, l'altra la infila tra le labbra del capitano che non capisce e inizia a sudare. Capitano, credo che sia arrivato il momento di farle una domanda. È una domanda che faccio a tutti i miei ufficiali. Chiedo sempre quale sia, secondo loro, la caratteristica fondamentale di un soldato. E adesso lo chiedo anche a lei. Il maggiore accende la sigaretta al capitano. Il capitano non risponde. La sigaretta inizia a bruciare e lui continua a sudare. Molti, capitano, rispondono il coraggio. È vero, il coraggio è una dote fondamentale per un soldato, perché è il coraggio che ci fa andare avanti oltre le nostre paure. Il fatto, il punto, capitano, è che una volta finito lo slancio, il coraggio non ci serve più, lei ne converrà sicuramente. Il capitano annuisce debolmente, la sigaretta continua a bruciare. Altri, capitano, pensando di essere più arguti, rispondono la pulizia, sottintendendo che la pulizia esteriore equivale alla pulizia interiore. Io sono parzialmente d'accordo, sicuramente tutto l'esercito sarebbe orgoglioso della coperta sulla quale sono seduto qui ora. Il capitano è come ipnotizzato dal maggiore. Pochi, capitano, capiscono che la risposta esatta è anche la più ovvia. La caratteristica fondamentale di un soldato è l'obbedienza. Il maggiore si alza. Il capitano si libera dalla coperta, cerca di mettere in fila delle parole, ma riesce soltanto a sudare. Capitano, io ora la farei fucilare, ora! Purtroppo questa guerra deve ancora finire. Perciò per ora il suo processo non si farà. Sotto processo andrà il soldato Tonon Giambattista. E io voglio che sia lei, capitano, a preoccuparsi di far eseguire la sentenza. Il soldato Tonon Giambattista è stato condannato a morte per insubordinazione. Mancano 2 ore all'assalto alla trincea dell'Albero Storto. Il capitano ha scortato Tonon fino a un prato, a 1 chilometro dalla linea di trincea. Non ha voluto nessun altro con sé. Si guardano. Sono uno di fronte all'altro. Non sanno cosa si diranno. Soldato Tonon Giambattista. Sì, sì, signor capitano. Soldato semplice Tonon Giambattista. Agli ordini. Soldato Tonon Giambattista, sei stato condannato a morte per insubordinazione. Eh sì, sì, sì, signor capitano. Capisci quello che vuol dire? E come no, signor capitano? Ma perché ridi? Ma perché sei una strana situazione, signor capitano? Non è strana! Non è strana, Tonon! Romeo non doveva uscire, tu non dovevi disubbidire a un ordine. Non è strana, Tonon! Smettila di ridere! Smettila di ridere! Smettila di ridere! Girati! Tonon si gira, ma dai movimenti delle spalle si capisce che sta continuando a ridere. Fa 5 passi avanti! Tonon esegue. Il capitano carica il fucile. Inginocchiati! Tonon si inginocchia. Il capitano alza il fucile, prende la mira. Tonon inizia a ridere forte. Il capitano trema, urla forte. Lascia cadere a terra il fucile e va in ginocchio. Tonon spalanca gli occhi, la risata ancora in gola, si alza, vede il capitano a terra, in ginocchio, che piange. Tonon gli si avvicina, si inginocchia vicino a lui e lo abbraccia. Il capitano all'inizio non reagisce, poi ricambia l'abbraccio, ma l'abbraccio del capitano è diverso da quello di Tonon, è più stretto. Dietro agli alberi, dietro al capitano, compare un cervo. Tonon vede il cervo, spalanca gli occhi, la bocca, fa un gran respiro. Il capitano si accorge, si gira, fa lui lo stesso. Il cervo è lì fermo che li fissa. Ha il pelo lucido, anche gli occhi. Annusa l'aria. Sta lì giusto il tempo. Tira un po' di vento, si muovono le foglie e se ne va. Tonon e il capitano si alzano, Tonon prende il fucile del capitano, glielo porge, si guardano e poi si dirigono verso la trincea. I miei uomini bevono il cognac. È arrivato. Segna il tempo dell'assalto. Lo scandisce. Stavolta lo bevo anch'io. Mi guardano tutti. Aspettano l'ordine. L'ordine di innestare la baionetta, che poi di lì si andrà a prendere l'albero storto, che chissà che cosa c'è dopo l'albero storto. Magari ce ne sarà un altro. La nostra artiglieria improvvisamente tace e io sono costretto baionette. I ragazzi innestano la baionetta, si girano verso gli austriaci. Pronti per l'attacco? Dall'altra parte una voce uguale alla mia. Bereit zum Angriff! Si stringe lo stomaco. I ragazzi stringono il fucile. Io guardo Tonon. Tonon risponde allo sguardo. Savoia! Un respiro. Escono tutti. Esce Dogliotti, una scarica di mitraglia e cade indietro con la testa fracassata. Escono Ceschin, Franceschetti, inciampano subito su un morto. Per star su si tengono per mano. Esce Busa, si arrampica vicino a Tonon, cercano una buca per star giù in mezzo alle granate. Si fa fatica a stare in piedi, si fa fatica ad andare avanti. Andare avanti e stare in piedi è l'unica cosa possibile, ma da davanti arrivano centinaia di pallottole e granate. E attento, Cristo, di qua, attento. Mamma, Tonon. Tonon facendo abusa di muoversi, escono escono in mezzo alle granate. Un fischio. Busa viene colpito al braccio, cade, non corre avanti. Ha trovato un varco nei reticolati, vuol dire che stiamo vincendo. Vuol dire che andiamo a prendere l'albero storto. Vuol dire che andiamo a prendere l'albero storto. Vuol dire che andiamo a prendere l'albero storto. La terra davanti a Tonon esplode. Lui si passa una mano sul braccio, ma non è niente, è un graffio. Allora continua a correre Tonon. Poi uno schiocco improvviso alla testa, cade in una pozzanghera. Si rialza quasi subito, si asciuga il fango dalla faccia, continua a correre, guarda verso di me, io gli faccio cenno di andare avanti, che l'albero storto è proprio lì davanti. Gli austriaci ormai non sparano più, ci sono solo cecchini. Pronti per l'assalto? Spunta persino un tricolore da chissà dove. Non prende la bandiera, corre verso l'albero storto, corre, arriva fin sotto l'albero, si gira, alza la bandiera, si sente esplodere un colpo, non cade.